se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ah, glielo dico io di cosa sto blaterando. Ho avuto delle informazioni, amico. Si è rapita da sola, ecco. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Un grillo è il mio mito, io ho un rapporto di odio-amore con Grillo. Perché mi piace quando fa il cialtrone, mi fa divertire, quando fa il comico, però poi non deve esagerare. Un mito e noi veramente gli dobbiamo sempre dedicare un paese, è Luigino Di Maio, perché è il nostro concittadino, merita, io gli devo questa attenzione, anche perché me la dedica lui a me, ogni tanto dice una palla io rispondo, se no figuriamo e perdo tempo con Luigino Di Maio. Luigino Di Maio, noto sfaccendato, poi è andato a fare lo steward allo Stadio San Paolo. Lo hanno cacciato perché portava seccia. Il Napoli perdeva quando c'era questo qua con la seccia. Poi a un certo punto ha detto che fa il webmaster. Io non sapevo il web, ho una certa età, no? Web, ok, che cazzo fai? Questo è il webmaster. Il webmaster ti possa. No, non volevo dire, ti possano benedire. Possano benedire. Vabbè, questa l'ha un po' riciclata De Luca, l'ha un po' riciclata quella del webmaster, dello sfaccendato. Ma d'altronde evidentemente è una campagna elettorale un po' stanca, un po' come tutti noi di parlare di questa cosa. Mancano 3 giorni, ragazzi, 3 giorni alla liberazione, 3 giorni al 25 aprile. Altro che 4 dicembre, il 25 aprile. È tutto un sentenziare, se vince il no succede così, se vince il sì succede così. L'ultima notizia è questa: se vince il no ci sono comunque un drappello già pronto di 100 deputati e senatori capitanati da Franceschini, ministro della cultura, e con lui ci sono Del Rio, Bindi. Insomma, la Democrazia Cristiana, ma questo per definizione di Repubblica, i 100 del Colle, del partito del Colle, cioè il partito di Mattarella, quelli che sono pronti a dire e sostenere Renzi, il governo deve andare avanti. Comunque, anche se perde il no, cioè se vince il no e quindi perde in qualche modo Renzi con la voglia di cambiare la Costituzione, avanti. Tra l'altro Graziano Del Rio sarà nostro ospite alle 8:40, eh? Chiederemo se fa parte di questi 100 del Colle. Forse è meglio parlare di cose un po' più soavi, leggere. Dai, oggi un po' ne parleremo. Intanto ne parleremo con uno reduce, redivivo, ritornato, scampato, il nostro direttore Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Luca, ciao. No, io me l'ero tenuta da 2 settimane. Lo so. Da 3 settimane, quando De Luca è venuto qui e ha definito così Beppe Grillo, ma lo dedichiamo a te. Pinguino. Reduce dall'Antartide, ma veramente Luca Dini è tornato dai pinguini a noi, e quindi che ti sia di auspicio il pinguino di De Luca oggi. Pinguino. va bene, abbiamo capito. Come stai, Luca? Tutto bene? Bene. Ero in Antartide quando ha vinto Trump. Sì? Ci vorrei tornare questo weekend, diciamo, sì, però sì, un po' scomodo. E tra l'altro di recente sei stato anche a Cuba. Fai mica parte dei servizi segreti, che vai dove succedono, certo, cose, dove capitano cose. I pinguini sono... È chiaro, è chiaro. E poi soprattutto ci potrai dire qualcosa di un personaggio che secondo me conosci. Caro Luca, intanto non c'è oggi la, come al solito, il mercoledì la nostra rossa, ma c'è un'altra rossa, perché ho visto che è arrivato il selfie e l'ho vista con dei capelli ramati. Ti piace ramati? Veronica Gentili, ramati va bene? Sei... Certo, mi sono tinta, te l'ho detto, per somigliarti di più. Per somigliare più a Trump. Non l'ho detto, sapevo che l'avresti fatto. Sai che mi ha detto Luca Dini che c'ho i capelli come Donald Trump? Ciao Luca. Dice che c'ho i capelli, mi ha voluto proprio distruggere l'ultima volta. Ha detto: ma non è che Donald Trump si è ispirato a te, ai tuoi capelli? Proprio però, senza riporto. Senza riporto. Infatti, ma io propongo, Luca, mi sacrifico e cedo la copertina ad Alessandro con vicino la foto di Trump. Ah, certo, perché ovviamente sapete che continua questo tentativo, che prima o poi arriverà a termine. Veronica Gentili in copertina su Vanity Fair. Prima o poi ce la faremo. Però se mi sacrifico per te, io sono, posso farlo. Va bene, va bene. Però il Parlamento deve aprire, perché il personaggio, ragazzi, di cui Luca Dini ci può dire qualcosa, l'uomo più elegante del mondo, e questo non confligge con quello che ogni tanto ci combina, è il nostro Lapo. Di cui devo dire, Lapo Elkan, io... sì, anch'io sorrido sulle tantissime ironie, battute, fotomontaggi, però vabbè, sì, in realtà... No, io condivido quello che hai twittato ieri, cioè in realtà sai, purtroppo c'è poco da ridere, è una storia molto triste. Sì, quello sì. È la storia di una persona che ha bisogno di forse di un aiuto. Però ecco, tu che l'hai, al di là di tutto, lo conoscete a Vanity Fair? Avete sì, seguito? Ma io l'ho incontrato un po' di volte fuori, diciamo, non per lavoro. Devo dire che lo so che sembra, tutti mi diranno, vabbè, adesso dici così, però molti me l'hanno confermato, chi lo conosce bene. È un ragazzo che ha attraversato delle cose difficili ed è un ragazzo molto molto molto buono. Chi non lo, sì, forse, no, chi lo conosce lo sa, guarda, molto che buono, è molto per bene. Oggi sui giornali chi un po' lo conosce dice il suo problema è pensare che siano tutti buoni al mondo, cioè tutti no, e come dire, e poi vabbè c'è questo, ma neanche dire problemuccio, cioè, un problema forse, perché è una dipendenza, insomma. È un problemone, insomma si sa che la dipendenza non è una cosa da cui si guarisce. È una battaglia quotidiana per chi ha la sfortuna di averla, e non è solo questione, perché io anche sono un po' stanco di sentir dire vabbè, se hai soldi ti puoi permettere queste cose, ma ci sono dipendenti da altre cose che si rovinano. Questa idiozia l'ha detta tutti quanti, purtroppo, e io poi su questo argomento, Ale, tu mi conosci, e divento intransigente. Cioè, purtroppo questo accostamento che se tu hai soldi sei venuto da una famiglia, no? Soltanto se vai in miniera lo sai cosa vuol dire, soltanto se lavori, rimboccati le maniche, figlio di papà viziato. Questo purtroppo fa parte dei luoghi comuni di chi non conosce cosa vuol dire star male, avere dentro veramente un malessere profondo e un'inquietudine, perché anche la dipendenza è figlia di questo, non è che uno decide... Certo. Di strafarsi o di passare appunto un certo tipo, perché poi, per carità, le scelte sessuali ognuno fa quello che vuole, ma se sono fatte in un certo modo anche quelle denotano sempre un certo tipo di malessere. Siccome l'abbiamo visto in tutte le salse, adesso la retorica, pure difendere la Polkan, Cioè, sono cose che veramente io non capisco. Ma qui non è, difendere, non è da difendere nessuno. L'accanimento però è una persona chiaramente che ha un problemone, ecco, appunto, è sicuramente una... più esposta perché è più sotto i riflettori, quindi è molto più facile prendersela con lui. In più è un soggetto che, a differenza di persone che si vedono soffrire e basta, chiaramente indispone, perché molti ritengono che abbia delle risorse economiche, pratiche, che secondo loro non si meriterebbe, e quindi tutti si accaniscono. Ma no, ma è chiaro, c'è stato l'accanimento da social ieri. Oltretutto devo dire che cioè, chi conosce bene la sua storia, c'è poco da invidiare. Ma certo, sono d'accordo. Non è un... Io, cioè, voglio dire, vorrei sapere quanti veramente vorrebbero essere al suo posto, aver avuto l'infanzia che ha avuto lui, la famiglia che ha avuto lui, nel bene e nel male... E essere sopravvissuti, perché per me l'Apo è un sopravvissuto. Sì. Comunque, eccolo qua. Prima di partire, aveva lasciato anche un video su Instagram dicendo: vado a fare progetti creativi, vado a New York. L'Apo Elkan, ce l'abbiamo? L'Apo che parte? Hey everyone, today I'm traveling abroad. I'll be going all over the United States of America and Asia, because there's a lot of projects and development. Many different things that will... Vabbè, su Instagram poi tutto diventa prova, tutto diventa social, perché ti lanci, vai, sono social. No, vabbè poi... ho capito. Che deve fare Luca? Cioè, perché adesso come e soprattutto come si può risollevare? Beh, 10 anni fa, ricordiamela, ricaduto, 2 anni fa ancora una vicenda un po' strana. Adesso questa cosa è seria, perché guarda che si deve presentare, credo, il 25 gennaio dal giudice, rischia se no una condanna fino da 2 a 10 anni. È molto seria la cosa. Devo dire che già 10 anni fa a me sembrava che fosse impossibile risollevarsi. E invece si è risolto. Lui l'ha fatto. Una cosa devo dire che a me ha sempre colpito, cioè se ti capita di essere presente a una delle cose che lui fa, sì, la gente in qualche modo, la gente comune, non i leoni da tastiera, percepisce questa decenza di fondo e gli vuole bene. Quindi penso che questo lo possa aiutare. Sì, ma poi vorrei sottolineare un aspetto: lui non ha mai fatto male a una mosca, cioè che una persona si massacri personalmente, che si faccia del male e si autodistrugga, alla fine appartiene al suo potere discrezionale. Poi può farlo in maniera goffa, incasinata, e che ulteriormente ti dimostra il fatto che è una persona naif e ingenua, perché quello che ha fatto è ai limiti con il grottesco, cioè una persona che non è in grado nemmeno di fregare il prossimo, di mentire. Allora mi sembra condannarlo, no? Ieri leggevo con la rete in generale, un altro po' mancava che gli dessero le colpe degli operai morti a Messina, mancava soltanto questo, no? Arrivi ad un livello di astio che senti delle persone, che dici: boh, io non so davvero come la gente la guarda. È come io ieri ho twittato, appunto, che questa ironia un po' mi lascia un po' indifferente, e c'è la gente proprio che mi scriveva: di che cosa dobbiamo ridere? Proprio perché si vedeva il gusto di uno che ha trovato il bersaglio quotidiano e dice: ah, sfogo la mia evidentemente cosa. Sono persone che non hanno la sfortuna di avere, che ne so, un amico, un familiare che ha dei problemi di dipendenza. Poi vabbè, no, comunque questo è, dai, l'Apo. Poi l'Apo, vogliamo anche dire ora che secondo me è anche servito ieri in maniera compulsiva come diversivo dalla tematica referendum, quindi esatto, la rete non ha appena visto un'isca, capito? Ma è questo, almeno è un bene, signori, perché io non ne posso più. Da questo punto di vista sì, però non volevamo il sacrificio di l'Apo, capito? No, mica una cosa. Oggi c'è anche questo fatto terribile di cronaca su cui il Corriere della Sera apre con le prime 2 pagine di un dottore e un amante che sono accusati di avere ucciso da un anestesista all'ospedale di Saronno, aver ucciso delle persone per dei malati terminali, o comunque di averne accelerato la morte proprio applicando questo protocollo per cui si faceva chiamare Dio in corsia, io sono l'angelo dei demoni, e uccideva le persone. Sì, infatti, questa è l'accusa, no? Lì è abbastanza, cioè, diciamo che subentra la follia, per cui anche tutto l'aspetto di lui, l'angelo della morte, insomma, mi sembra molto richiamato. Ci sono queste notizie di cronaca che per un giorno, almeno sui giornali, hanno, come dire, offuscato la questione del referendum. Anche perché la questione del referendum, ragazzi, Dai. No, anche perché se dobbiamo sbrigarci ad arrivare vivi a domenica senza esserci picchiati a manganellate sotto casa, noi che prima andavamo, capito? È così dura. Ormai, eh? Caro Luca, inventati qualcosa, fai qualcosa, spogliati nudo e corri per la città oggi e crea la notizia di domani sui giornali, ti prego. Posta un selfie. Dobbiamo diversificare gli argomenti fino a domenica in tutti i modi possibili e poi da lì siamo, dovremmo essere salvi, cioè l'apocalisse arriva il 4, arriva, se non arriva il 4 arriva forse il 5, vabbè, ma adesso dai, pronosticone, facciamo un pronosticone, tanto è un sondaggio, dai, su, no, facciamo, questo è il tuo punto forte, sì, il pronosticone in genere, quindi vai. Uno sciocchino oggi, ecco, sono a basso profilo, siamo solo al primo. Sono al primo. Allora, pronosticone, dai, Veronica, al di là di quello che è stato, si sa che tu voti no, voterai no, scrive gigante, no, proprio entra con i cartelloni, no, vabbè. Ma al di là di quello, selfie non mi sono scritta no sulla fronte, oh, lo volevo fare. Ma si potevi fare, l'avrei pubblicato comunque, ma che ti ringrazio. Il tuo cuore di sciocchina non avrebbe retto, quindi ho detto lasciamo andare. E due. Allora, che succede secondo te al di là dei tuoi desideri? Dai un pronosticone, così lo registro e ci sputtaniamo tutti un po' lunedì, su, dai. Allora, il mio pronosticone ti dice, attento, 60-40 di probabilità, non sto dicendo i punti percentuali, per il no. 60 no, 40 sì. Questo 6 a 4. Che vuol dire 6 a 4? Cioè, 6 possibilità, dovessi andare a giocare alla schedina, ti direi 6 possibilità. Ah beh, stai dicendo che finisce così, 60 al no e 40 al sì, questa è la... No, non volevo dirla così, però... Io sono un banalotto, sai che la devo semplificare. Luca, tu come finisce alla fine? Ma guarda, una settimana fa avrei detto la stessa cosa. Non so perché non sono più tanto convinto, nel senso che la vedo più vicina a 50-50, però... così qui, no, 50-50 è fantastico, no, quindi 50-50 è l'unica cosa che non ci possiamo permettere. Questo è un caso clamoroso, no, questo stavo sarebbe... 51-49, dai. Ma per chi? Per chi? Per il no, diciamo. Ah, 51-49 per il no, ragazzi. Pensa... Luca ci sta dicendo che sarà una lunghissima notte di spoglio elettorale. Però pensa veramente se fosse 50 e 50. Proprio, ecco, io questo sognerei. No, 50-50 è impossibile. Questo io lo sognerei invece. Lo stesso identico numero di voti. La stessa persona di qua e di là, in maniera tale che facciamo un altro mese di proroga. Sarebbe un contrappasso meraviglioso. Una campagna elettorale perenne. Un qualcosa veramente straordinario. Io voto. Mi stupisce parlare con le persone, trovo che ci siano ancora molti molti indecisi, cioè sì. Soprattutto persone che non hanno ancora deciso, soprattutto persone che non sanno nulla di... sì anche, ma no, che in assoluto devono ancora decidere. Io non so se questo voto di chi non sa ancora nulla però si slatentizzerà adesso all'improvviso e tutti avranno consapevolezza e andranno alle urne. Io su questo non lo so. Io... No, ci saranno anche alcuni che secondo me alla fine non ci andranno proprio, ma chi certo ha deciso. È che tutti quelli che votano, appunto, come dice Grillo, di pancia, e quindi votano proprio in maniera così contro il governo Renzi, punto, in maniera irruenta, hanno già stradeciso da tempo. Quelli hanno già deciso, da me. Chi vota nel merito della riforma quella è già deciso, è chiaro, ma sono pochi, il voto è pro o contro il governo, dai, diciamolo chiaramente. Poi ci sono tutte le varie cose sopra, i vari ricami, Renzi si dimette due giorni prima, allora l'ultima, la moglie di Renzi vota no, ieri Renzi ha detto ma dai mia moglie, no. L'ultima bufala. Comunque aspetta, devo andare al traffico, ci chiedono il selfie di Veronica struccata. È già arrivato, è già stato messo online, quindi il nostro ascoltatore è anche un po' distratto, ma comunque mettiamo dopo il traffico, sentiremo Renzi cantare, ve lo giuro, sentiremo Renzi cantare. Non so se votare sì o votare no, fammi pensare. Mira, mandami il traffico per favore, traffico. Eolo, internet ultraveloce per il business, scopri l'offerta su eolo.it. vi presenta Io lunedì 5 dovrei andare al Motor Show di Bologna. Volevo sapere se posso fidarmi, se devo disdire l'appuntamento. In base un po' al risultato del referendum, qua non si sa, eh. Ciao Alessandro, scusami, ha detto Renzi che le tasse non sono aumentate, ma gli ha detto il ministro delle finanze quello che non sa quanto costa benzina e latte? I cinesi sembrano persone serie, però potrei anche decidere di tenermi il Milan. Alessandro Milan, per il gioco, Cribbio. Hai Berlusconi lì? Sì. Ma cioè, scusami, fammi capire, Giova, dal momento che Renzi non poteva venire, ha mandato il padre. Dopo tutto quello che ha fatto, io mai avrei immaginato che la storia l'avrebbe rivalutata così in fretta. Guardi, ci è voluto Renzi per farci venire nostalgia. Crozza lì con Berlusconi. Tra l'altro Berlusconi con la sua solita ironia ha detto: l'unica cosa che può dire Crozza è che mi piacciono le donne. E spero che sia così anche per lui. Luca Dini con la stoccata di Berlusconi. Spero anche a lui. Vabbè, questo però è stato un grande momento ieri sera, sì. Quando c'era la copertina di Crozza e Berlusconi in studio, ho detto no, così è troppo. Ragazzi, è stato un grandissimo incontro. Berlusconi da Flores, cioè questo fa capire proprio, ma quando c'è questa campagna elettorale che ti vendono le enciclopedie, ti si propongono, no, dovunque, vabbè, che dobbiamo fare? Li trovi dappertutto, è diventata anche una macchietta il fatto di mettere tutti questi personaggi che sostengono la stessa tesi, come no, per dare il senso del grottesco, che questo ricordiamolo sempre, non così per fissazione, però stiamo votando per un referendum anche se si pensa che siano elezioni politiche, sì, quindi esatto. Che si sia dalla parte del no o dalla parte del sì, assieme ad individui anche assolutamente improbabili, sta nel gioco delle cose. No, questo sì, però tu Luca Dini dice che ci sono poche persone, no, molte indecise hai trovato e molte persone. Guarda, siccome voglio fare una scommessa, posso cambiare la mia scommessa? Sì, certo, come no, eccoci qua. Guarda, allora faccio, già godevo il 50-50. Prendo il rischio e dico 51-49, sì. Invece. Va bene, ho registrato, tagliate tutto. 51-49, sì. Vince il sì, notaio. Dai, sì, notaio. Ma che ci giochiamo? Ma non lo so. Ah, ci giochiamo la copertina di Vanity Fair, attenzione, perché abbiamo messo insieme al selfie, Luca, sono cavoli, al selfie di Veronica Gentili il sondaggio referendum tra i nostri ascoltatori. Vorreste Veronica Gentili in prima di Vanity Fair? Vogliamo stabilire un quorum. È già vinto. Oh. E lì mi sa, secondo me avremo un 80% di sì e un 20% di no. Guardalo qua, siete il classico referendum bulgaro. Allora, abbiamo in copertina di Vanity Fair per il momento tale, guarda, anche Lorenzo Nespoli lo vedo un po' Benedict Cumberbatch. È giusto? Bravo. È giusto, giustissimo, sì. Chi minchia è? Scusa. No, il sex symbol più inseguito del mondo, ma chi sarebbe, scusa? Allora, tu non hai mai visto Sherlock? Ovvio, si sa. Non hai visto The Imitation Game e non hai visto Doctor Strange. È un attore. Vabbè, però dopo questi tre indizi pezzo, l'avevo capito anch'io che era non un attore. Stesso pezzo, sei rosicone, perché diciamolo, sei un gufo della carriera di questo attore, no, perché no, lo no. Vuoi fare tu. Ah, carità, no. Sono rosico un po' per il suo essere sex symbol, questo effettivamente sì. Queste io sono cose che non capisco. Luca, anche lì ti ribadisco, nelle classifiche dei sex symbol che vengono stilate, sì, no? Sì. Ma Milan dov'è? Dov'è? Cioè, se non lo sai tu, fai finta, di almeno nei primi 500 posti. Non lui è che... nella lista dei best dressed, diciamo. Dei best dressed, insieme alla Poelka. Ma eccolo qui in servizio, l'ultimo bacio sui pinguini. Ma sei andato veramente in Antartide? Ma quanto fa freddo in Antartide? Quanti gradi? Ma guarda, dove sono andato io in realtà è la zona più vicina, quindi, ed è estate, quindi